Focus Economia. Con Simone Spezia. Le 17:09. Buonasera gentili ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Sono parecchi gli argomenti in agenda oggi. Avete sentito nel nostro giornale radio, l'ultima ora appena arrivata, Fitch ha nuovamente abbassato il rating sulla Grecia. È un argomento che toccheremo solamente in parte, in realtà soprattutto nella parte che riguarda i mercati, perché questo sembra aver dato una botta definitiva alle borse, che hanno oscillato un po' per tutta la giornata e adesso sembrano assestarsi a ridosso della chiusura verso un ribasso piuttosto netto. Il FTSE MIB c'è dell'1,34%, il FTSE All Share l'1,26%, e male fa un po' tutta l'Europa. L'America va lievemente meglio, meno 0,75% per il Dow Jones. Naturalmente parleremo di questo quando affronteremo il tema dei mercati. Parleremo del Fondo Monetario Internazionale, di questa lotta per la successione. Perché? Perché sembra dato per certo il nome di Christine Lagarde, il ministro delle finanze francese, al posto di Dominique Strauss-Kahn, travolto dall'inchiesta che ben conoscete. E però c'è qualche perplessità da una serie di fronti, dai paesi dell'Asia soprattutto, ma oggi anche il segretario generale dell'OCSE ha detto: beh, sarebbe bello che questa volta alla direzione generale del fondo arrivasse un non europeo. Poi toccheremo il tema dei mercati anche in un altro senso, perché vi abbiamo raccontato dell'exploit pazzesco del social network LinkedIn. Ne trovate parecchio anche oggi sui giornali, un più 100% circa, insomma un raddoppio del valore nel giorno della quotazione. Oggi ha guadagnato un altro 7% circa. C'è già chi parla di nuova bolla, alcuni probabilmente anche tra coloro che sono rimasti scottati dalla bolla internet della volta precedente. E poi parleremo dell'Italia, da una parte dell'Italia che va ed è quella dei dati di oggi sulla produzione industriale, che sono particolarmente positivi, dall'altra parte dell'Italia che sta ferma. Una storia molto interessante che trovate oggi sul Sole 24 Ore, ed è la storia del rigassificatore che doveva realizzare British Gas, sul quale British Gas ha investito parecchio denaro già, e che i cui lavori sostanzialmente non sono ancora partiti, o sono insomma uno stato di avanzamento assolutamente embrionale. Ne parleremo con l'amministratore delegato in Italia di British Gas, un'altra di quelle storie che si accostano a quella dell'IKEA che vi abbiamo raccontato e a quella di Porto Tolle. Iniziamo dalle notizie in breve di questa giornata. Come sempre il numero per intervenire in diretta è via SMS del 349-238-6666. Iniziamo dall'oro. In rialzo a 1.496,93 dollari l'oncia, un più 0,2%, sale anche l'argento a 35,13. Ed è un'apertura in rialzo oggi anche per il petrolio a New York a 99,03 dollari, rialzo comunque lieve anche qua, un più 0,6%. È arrivata questa mattina la notizia dal Giappone, la stima della TEPCO, la società che, come sapete, gestisce o gestiva l'impianto di Fukushima, l'impianto nucleare che ha subito i danni, come sapete, per lo tsunami dell'11 marzo, accusa una maxi perdita da 1.000 miliardi di yen, 8,5 miliardi di euro. Tra l'altro, e non ci si aspettava nulla di diverso, la TEPCO ha annunciato che i reattori numero 1, 2, 3, 4 della centrale di Fukushima saranno decommissionati, che vuol dire dismessi in sostanza. Siamo all'Europa, l'Europa con la notizia che vi riferiva il nostro giornale radio. Fitch ha tagliato a B+ il merito di credito della Grecia, abbassandolo di ben 3 gradini dal precedente BB+. Lo ha comunicato l'agenzia di rating in una nota che poi ha specificato: senza un nuovo programma d'aiuti interamente finanziato dall'Unione Europea e dal Fondo Monetario Internazionale, Fitch potrebbe nuovamente tagliare il rating greco, portandolo alla categoria CCC, che indica un'alta probabilità di default. Nel frattempo vola ad un massimo storico lo spread tra i titoli di Stato greci a 10 anni, il corrispettivo Bund tedesco, un differenziale a 1314 punti base, il premio di rendimento del bond decennale ellenico è al 16,25%. Intanto il ministro delle finanze, Gheorghe Papakostantinou, dice la Grecia deve accelerare le privatizzazioni e le dismissioni del patrimonio immobiliare pubblico. Nel frattempo, secondo la stampa locale, la Norvegia sarebbe intenzionata a stoppare i finanziamenti per Atene, una decisione che potrebbe innescare un effetto domino tra i paesi del nord Europa. Dal lato dell'andamento dell'economia c'è quello che dice la Bundesbank, la banca centrale tedesca. Nei prossimi mesi la crescita economica della Germania potrebbe rallentare dopo un inizio di anno esplosivo. Secondo la Bundesbank, appunto, il rialzo del PIL dell'1,5% nel primo trimestre sopravvaluta considerevolmente l'attuale congiuntura economica. E sono moderatamente più deboli, secondo il Fondo Monetario Internazionale, anche le prospettive per un paese in tutt'altra situazione, ossia l'Irlanda. Si parla delle prospettive per il PIL. Sottolinea il Fondo Monetario che l'ampliarsi della crisi nell'area euro pone dei rischi per il paese. Siamo ai dati dall'Italia, quelli positivi. Come vi dicevamo, il fatturato delle industrie in marzo è cresciuto del 2% su base mensile, del 12,2% su anno. Importanti anche gli ordini, perché danno la visione di quello che avviene, un po' più proiettata sul futuro. In marzo un più 8,1% su mese, al top dal 2006. Tra l'altro tutto questo è stato trainato dal mercato estero, un più 15,5%. Su base annua la crescita è del 21,2% per gli ordini. Per quanto riguarda la produzione industriale metalmeccanica nel primo trimestre 2011, e su questo sentiremo più avanti un'intervista, è aumentata dello 0,8% rispetto al primo trimestre precedente, mentre è cresciuta rispetto al primo trimestre del 2010 del 6,7%. Volumi di produzione metalmeccanica che risultano comunque inferiori del 24,5% rispetto a quelli pre-recessione, mentre per la Germania questa differenza si è ridotta a meno di 5 punti percentuali. Ha parlato oggi il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in occasione della commemorazione del giuslavorista Massimo D'Antona, a 12 anni dal suo assassinio. Oggi più che mai, dice, occorre un diritto del lavoro inclusivo ed equo, attento alla tutela dei diritti della parte più debole contrattualmente e alla riaffermazione rigorosa dei relativi doveri per salvaguardare insieme crescita economica e coesione sociale. Infine, sul tema delle spiagge, ci ritorniamo un'altra volta, perché ci sono delle dichiarazioni che arrivano dai sindacati dei balneari che dicono: a giugno sciopero dell'ombrellone, perché la nuova versione del decreto non risponde alle aspettative delle 30.000 imprese balneari né alle esigenze del turismo. E veniamo al primo tema di giornata, ossia il dopo Strauss-Kahn. Non male, nel frattempo la battuta e ci arriva via SMS sulla Grecia, si parla di privatizzazioni, chiedete a quanto sta il Partenone. Beh, insomma, forse quello non lo venderanno. Chissà però, eh. Allora, Dominique Strauss-Kahn, rinviato a giudizio con l'accusa di stupro, al momento libero su cauzione, si è dimesso ieri da direttore del Fondo Monetario Internazionale. Quindi è partita la corsa, carica momentaneamente ricoperta da John Lipsky, numero 2 del fondo. In pole position, come sapete, come vi abbiamo raccontato anche nei giornali radio, il ministro delle finanze francese Christine Lagarde. I paesi del sud-est asiatico puntano invece sul ministro delle finanze di Singapore, e spero di pronunciarlo bene, Tharman Shanmugaratnam. Allora, saluto Alessandro Merli del Sole 24 Ore. Buonasera Alessandro. Buonasera. Che si occupa sempre delle vicende, più o meno sempre delle vicende del Fondo Monetario Internazionale, e anche Alberto Forchielli, presidente dell'Osservatorio Asia. Buonasera. Buonasera a lei, grazie. Allora, partirei con Alessandro Merli, perché poi oggi si sono diffuse delle voci, ed è per questo che abbiamo chiesto anche a Forchielli di intervenire, si sono diffuse delle voci strane sul fatto che la Cina pretende un posto, forse addirittura quello da direttore generale. In realtà non è esattamente così. La sensazione che abbiamo, Alessandro, è che comunque voglia far sentire la sua voce Pechino. Certo, ci sono stati una serie di interventi in questi giorni che fanno capire che Pechino, come del resto è avvenuto diciamo nell'ultimo anno, anno e mezzo, due anni, in tutti i consessi internazionali, vuol far sentire la propria voce, vuol far sentire che il peso che ha adesso nell'economia mondiale deve contare anche nelle istituzioni, ma su queste cose probabilmente Forchielli ne sa più di me. Quello che non avverrà sicuramente è un cinese alla guida del Fondo Monetario, non almeno in questa tornata. La ragione è molto semplice, gli Stati Uniti non lo consentirebbero e comunque i tempi non sono maturi per una designazione di questo genere. Però i cinesi hanno detto ancora ieri che ci vuole più rappresentanza per i paesi emergenti al vertice del Fondo Monetario, hanno usato l'espressione top management, il che vuole dire probabilmente che vorrebbero avere uno dei 4 o 5 deputies che ci sono al Fondo Monetario, non tanto il posto di direttore. Comunque sono d'accordo con gli altri emergenti, Brasile, India, Russia, Sudafrica, che un po' più di spazio per loro ci deve essere, ed è giusto visto che l'economia non è quella del 1944, quando si facevano le spartizioni dei posti al Fondo Monetario e alla Banca Mondiale, che sono durate poi per i 60 anni successivi. Allora, naturalmente la questione non è da poco, perché tra le operazioni più recenti, come sapete, del Fondo Monetario Internazionale c'è anche la partecipazione ai piani di salvataggio dei paesi europei, Grecia, Irlanda e Portogallo, su tutti, e non è da poco anche perché, come sappiamo e come spesso vi abbiamo raccontato, la Cina si è peraltro offerta di aiutare, e lo ha fatto anche, di aiutare direttamente questi paesi. Allora, Alberto Forchielli, da un punto di vista di Pechino invece, come la vedono là? Se Pechino volesse un direttore da subito, dovrebbe fare delle aperture di carattere finanziario che non è in grado di fare. Quindi lo scenario di Merli è probabilmente corretto. Se non è concepibile che la Cina possa ambire a un posto di direttore avendo un renminbi non convertibile e un mercato di capitali chiuso. Con un cinese come direttore dovrebbero immediatamente dar seguito a un'apertura del sistema finanziario, cosa che non sono disposti a fare. Quindi probabilmente mettono le mani avanti, si apre una trattativa e alla prossima tornata, se le condizioni ci saranno, ossia se i cinesi avranno fatto passi importanti nella direzione di liberalizzare il sistema finanziario, allora forse si potrà materializzare un cinese come direttore del fondo. Questo è è lo scenario. Questo è lo scenario. Allora, nel frattempo vi segnalo l'agenzia che esce adesso, un'intervista al quotidiano austriaco Der Standard di quella che si presume sarà il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, che è il ministro delle Finanze francese Christine Lagarde, che dice che la Grecia è a rischio default. Diciamo la verità che ce ne eravamo accorti tutto sommato. Allora, Alessandro Merli, sembra che la Lagarde abbia un'autostrada davanti a questo punto, o no? Ma diciamo che gli europei si sono mossi molto rapidamente e si sono mossi molto rapidamente sapendo di avere un candidato molto forte, perché la Lagarde, dalla sua, il fatto che è molto rispettata non solo in Europa ma anche negli Stati Uniti, dove ha lavorato per 25 anni, è stata alla guida di uno dei più importanti studi legali di avvocati d'affari negli Stati Uniti, Baker McKenzie a Chicago, gode di un certo rispetto anche nei paesi emergenti, recentemente ha fatto un giro in Asia e ha raccolto molti consensi, e quello che non guasta è anche una donna che, date le circostanze in cui si è dovuto dimettere Strauss-Kahn, forse non guasta. Quindi io credo che sia abbastanza probabile che la Lagarde ce la faccia. Non avverrà nelle prossime ore, io credo, anche se tutti invitano a far presto, a partire dal segretario del tesoro americano Tim Geithner. Ci vorrà, come ha detto Forchielli, un po' di negoziato, dovranno essere date delle concessioni ai paesi emergenti, però credo che alla fine la Lagarde ce la farà, con una piccola incognita che è legata a una vicenda giudiziaria in cui è stata coinvolta recentemente anche lei, e che potrebbe chiudersi nelle prossime settimane, forse in tempo perché possa poi presentarsi tranquillamente come candidato per la guida del Fondo Monetario. Alessandro, l'ipotesi dell'impronunciabile ministro delle finanze di Singapore è mai stata presa in considerazione davvero oppure no? I nomi che circolavano, tutti lo chiamano semplicemente Parman, ero a una riunione con lui proprio a Washington il mese scorso e nessuno osa pronunciarne il cognome. Lo stesso Strauss-Kahn, che era vicino a lui in questo incontro, lo chiamava Parman, non magari perché siano particolarmente intimi, ma perché appunto il cognome è impronunciabile. Anche lui è una persona che gode di un certo rispetto, il ministro di Singapore, un'economia che è naturalmente una delle storie di successo dell'economia mondiale. Proprio ieri o ieri l'altro, se non sbaglio, è stato nominato anche vice premier del suo paese, e con questo ha dichiarato lui: mettiamo la parola fine a queste ipotesi di una mia candidatura. Un altro possibile candidato dei paesi emergenti, che è l'ex ministro della Turchia Kemal Dervis, anche lui stimato sia in Occidente sia in Europa che negli Stati Uniti, ha dichiarato proprio mezz'ora fa di non essere interessato all'incarico. Quindi si sta sottigliando molto il numero di quelli che potrebbero rappresentare i paesi emergenti in questa contesa, forse anche perché chiarisci, hanno capito che Alessandro, sono grandi chance. Alessandro Merli, ci chiarisci se questo, se la persona che verrà nominata farà un mandato pieno o semplicemente porterà a termine il mandato di Strauss-Kahn? Quanto mancava Strauss-Kahn? Un anno e mezzo circa? Mancava circa un anno, poco più di un anno. In passato ci sono stati proprio gli ultimi due casi prima di Strauss-Kahn. Il direttore del Fondo Monetario si è dimesso anzitempo, il primo era il tedesco Horst Köhler, che si è dimesso per rientrare in Germania ed essere eletto Presidente della Repubblica. Köhler, lo ricorderanno vagamente i risparmiatori italiani coinvolti nel caso dei Tango Bond argentini, perché contribuì con una pessima gestione da parte del Fondo Monetario di tutta la vicenda a fare precipitare il tracollo di tutta la questione dei Tango Bond. Köhler si dimise al suo posto, quindi anzitempo, al suo posto andò lo spagnolo Rodrigo Rato, il quale ebbe un mandato pieno, anche lui però a sua volta si dimise prima della fine del mandato perché per ragioni personali volle rientrare in Spagna. A quel punto venne nominato Strauss-Kahn a sua volta per un mandato pieno, quindi è il terzo che non completa il mandato, però in teoria anche il prossimo dovrebbe essere nominato per un mandato pieno. Per un mandato pieno, ammesso che lo completi. Cosa, Aggiungo una cosa, che un personaggio come la Lagarde difficilmente si scomoderebbe per andare per un anno a scaldare il banco a qualcun altro a Washington come direttore del Fondo Monetario. Certo, certo. Alberto Forchielli, e poi arrivano i cinesi. Sì, l'ipotesi che si faceva qui era che ci sarebbe stata una persona con un mandato parziale, appunto di un anno e mezzo, per poi far posto a un cinese. Questa era l'ipotesi a cui io potevo credere di più. Però io credo che sia ora di finirla con i direttori europei, perché è anche umiliante per l'Europa che ci debba essere un direttore del fondo che viene a mettere ordine alle cose in Europa con i problemi che ci sono nel mondo. Come se noi europei, con una banca centrale europea, non fossimo capaci, e con un presidente europeo non fossimo, cosa che non è che non fossimo, non siamo capaci di mettere a posto le cose a casa nostra. Quindi voglio dire, io trovo che sarebbe anche elegante che gli europei si facessero da parte per lasciare spazio a quei paesi che ormai sono protagonisti del mondo. Però si sa come vanno queste cose, però insomma è un mi sembra difficile, soprattutto mi sembra difficile a questo punto. Allora, io chiudo qua, ringrazio Alberto Forchielli, presidente dell'Osservatorio Asia, per essere stato con noi, buonasera. Grazie, grazie. E Alessandro Merli del Sole 24 Ore, grazie Alessandro e buonasera. Grazie a voi, buonasera. Allora, ci prendiamo una breve pausa, ci ritroviamo subito dopo e parliamo di mercati. Le 17:37 minuti, di nuovo buonasera da Simone Spezia, è il momento della borsa. Paolo Paronetto, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buonasera. Allora, giornata nella quale le borse hanno oscillato notevolmente e poi hanno scelto la via del ribasso. Sì, esattamente, in avvio la tendenza era incerta, erano partite addirittura in rialzo per la terza seduta consecutiva, ma sul finale sono prevalsi i timori sulla situazione della Grecia, soprattutto dopo che l'agenzia di valutazione Fitch ha tagliato il giudizio sul paese ellenico. Ricordiamo che inoltre ieri la BCE aveva messo in guardia sul fatto che in caso di ristrutturazione del debito greco non avrebbe più potuto accettare i titoli di Atene come collaterali nelle operazioni di rifinanziamento, e quindi l'incertezza sulla situazione ha oggi pesato sui listini in chiusura di settimana, in particolare sul settore finanziario. Classicamente, quindi, la Popolare di Milano lascia giù il 4,15%, Unicredit il 3,80%, Intesa San Paolo il 3,58%, il Banco Popolare il 3,12%. Io però vorrei partire con te dai titoli in positivo, che in realtà non è che c'è questo granché, quantomeno sul FTSE MIB, perché sono 3 e 1 in perfetto pareggio. Mediaset su tutti più 0,68%. Esattamente, Mediaset è stato il titolo in controtendenza per tutta la giornata in testa al FTSE MIB, e gli operatori segnalano che è la seconda seduta consecutiva di recupero dopo che il titolo aveva perso il 5,2% dallo scorso 10 maggio, giorno in cui erano state rese noti i conti trimestrali, e il mercato era stato deluso in particolare dalle prospettive sull'andamento del mercato pubblicitario. Quindi i titoli hanno perso terreno da allora, evidentemente oggi vengono considerati in linea, e viene considerato che scontano già queste prospettive sull'andamento della pubblicità, e quindi gli investitori hanno deciso di tornare a inserire il titolo nel loro portafoglio, e da qui spiegato il recupero delle ultime due sedute. Ebbene anche Tenaris, bene, insomma, si fa per dire, insomma, moderatamente bene, più 0,36%, c'è un motivo particolare? No, i titoli del petrolio, anche Saipem è stato più o meno sulla parità, ha fatto più 0,05%, nonostante il petrolio abbia perso terreno anche oggi. In questo momento il WTI è a $98, ma erano titoli anch'essi che si erano mossi molto proprio sulle oscillazioni del greggio nelle ultime settimane. Oggi per loro hanno limitato i danni, anche l'Eni vediamo che ha perso lo 0,29%. Allora, giornata strana sui mercati nel complesso, e giornata strana anche per Fiat, no? Esattamente, Fiat è andata, il gruppo, i titoli della galassia Fiat sono andati a doppia velocità, Fiat SPA è invariata, quindi tra i titoli che hanno... Ricordiamolo sempre, Fiat SPA che è quella che tiene dentro l'auto. L'auto, esattamente, sì. Ha chiuso sulla parità, quindi con una performance decisamente migliore rispetto all'intero listino, mentre Fiat Industrial è scesa insieme, diciamo, alla maggior parte delle blue chip, perdendo il 2,95%. Su Fiat il titolo è sotto i riflettori dopo che ieri in serata è arrivata la conferma di quanto già anticipato dal Sole 24 Ore ieri mattinata, cioè il fatto che la partecipata statunitense Chrysler ha chiuso il rifinanziamento del debito che servirà a rimborsare gli aiuti ricevuti dal governo americano e canadese da 7,5 miliardi di dollari. Questa è una mossa che di fatto spiana la strada a Fiat per arrivare a breve alla maggioranza di Chrysler, e quindi questo è stato apprezzato dal mercato. Inoltre alcuni analisti hanno alzato il giudizio sul titolo Fiat, in particolare Chevrolet ha rivisto la rialza della raccomandazione outperform dal precedente underperform, con anche un target price portato a 8,5 euro da 7,1. Fiat oggi ha chiuso poco sotto i 7 euro, quindi anche questo ha contribuito a spingere alla rialza il titolo Fiat. Sì, mentre invece sono andati male gli altri due titoli della galassia, cioè Exor -1,39%, che ricordiamo è quella che potremmo definire la cassaforte di controllo di Fiat, e Fiat Industrial, che ci dicevi quanto ha perso oggi? Il 2,95%. Come mai? Ma non c'è nessun giudizio motivo particolare sul titolo, ovviamente in una giornata del genere in cui tutte le borse scendono, in cui si teme di possibili nuove ricadute sull'economia della situazione finanziaria, Fiat Industrial è tipicamente, come del resto tutto il settore auto, ma in particolare il settore in cui opera Fiat Industrial, è molto legato alla congiuntura economica e quindi ha risentito di questa tendenza, così come vediamo altri titoli tipicamente legati alla congiuntura come quelli del cemento e delle costruzioni, Unici, ma ha perso il 3,03%, in pregiro il 2,68%. Sì, male anche Pirelli, tra l'altro in mezzo tra questi titoli, tra i peggiori, è l'unico che non vi abbiamo dato, un -2,72%, e per rimanere sui finanziari un -2,5% circa, -2,53% per essere esatti, per Mediobanca. Altrettanto lascia sul terreno A2A, vi abbiamo parlato tanto di ballottaggio nei nostri giornali radio, abbiamo fatto fior di speciali e qua troviamo anche l'impatto sui mercati, no? Oggi molti operatori segnalavano proprio che su A2A pesa l'incertezza su quello che sarà la strategia del gruppo dopo le elezioni amministrative, dopo i ballottaggi, e in particolare in caso di vittoria del centro-sinistra a Milano. Secondo molti operatori infatti il rischio è che A2A si possa ritrovare nella situazione di qualche mese fa, quando a Brescia era governata da una giunta di centro-sinistra, mentre Milano era governata da una giunta di centro-destra, e c'erano stati numerosi scontri sulla governance, in particolare quando alla guida del consiglio di sorveglianza c'era il bresciano Renzo Capra, che era stato indicato proprio da quella giunta di centro-sinistra, ed è stato poi sfiduciato quando a Brescia è cambiato il governo cittadino. Gli investitori temono che ci possa essere uno stallo nella governance del gruppo in caso di vittoria del centro-sinistra, naturalmente sono speculazioni, oggi il titolo ne ha risentito perdendo il 2,53%. Allora, tra i titoli in negativo anche Azimut, e qua siamo sempre sui finanziari, siamo -2,17%, Monte dei Paschi -1,87%, Fondiaria Sai -1,7%, Snamret e Gas giù dell'1,6%, tra i titoli in negativo oggi anche Seat Pagine Gialle e Benetton, Paolo. Esattamente, Seat Pagine Gialle è stato tra i peggiori dell'intero listino, ha perso il 4,79%, oggi è stata Moody's a tagliare il rating sul titolo, in particolare perché l'agenzia di valutazione ritiene altamente probabile una ristrutturazione del debito da parte di Seat nell'arco dei prossimi 12 mesi, ha quindi tagliato il giudizio sul titolo e gli investitori lo hanno venduto. Inoltre, come ricordavi tu, anche per Benetton è stata una giornata difficile, il titolo ha perso il 2,48%, e qui c'è tutto il settore dell'abbigliamento, ha risentito delle vendite dei grandi gruppi statunitensi che sono state deludenti, i dati sulle vendite comunicati oggi, in particolare Wall Street Gap perde oltre il 17% dopo aver annunciato conti in calo e aver tagliato gli obiettivi sull'intero esercizio, come dicevamo notizie che hanno pesato sull'intero comparto e a Piazza Affari, in particolare su Benetton. Un'ultima domanda, anzi due collegate insieme, Paolo, e riguardano il debutto, il secondo giorno di quotazione per LinkedIn negli Stati Uniti, perché ne parleremo tra poco. Vorrei capire da te come sono andate le cose, se non sbaglio bene anche oggi, e poi se per quanto assai limitato il settore tecnologico / internet italiano ne ha risentito positivamente. Sì, LinkedIn sono una performance positiva anche oggi, non esplosiva come quella di ieri. I titoli, beh, ci mancherebbe altro, con un 100% al giorno, insomma. Dopo quello che è successo ieri, comunque i titoli stanno salendo di quasi il 10%, poco fa erano dell'8,5% e quasi, diciamo che sul livello tecnologico in generale non c'è stato un grande effetto traino. Il sottoindice europeo della tecnologia oggi ha perso lo 0,22%, comunque visto quello che hanno fatto altri settori non è stato tra i peggiori, mentre a Piazza Affari ST Microelectronics ha lasciato sul terreno lo 0,92%. E grazie anche a Paolo Paronetto di Radio Corriere Sole 24 Ore per essere stato con noi e buonasera. Grazie a voi, buonasera. Allora, chiudo dandovi altra notizia di oggi, visto che riguarda, visto che parliamo di quotazioni, che la borsa di Hong Kong ha dato il via libera alla quotazione di Prada. La Maison di Miuccia Prada ha avuto l'approvazione per un IPO da 2 miliardi di dollari. L'obiettivo sarebbe debuttare in borsa il 24 giugno, assistita Prada da Intesa San Paolo, Credit Agricole, Goldman Sachs e Unicredit. Adesso la viabilità, ci ritroviamo tra un attimo proprio per parlare di LinkedIn. Allora, ci chiedete perché un paese col PIL inferiore a quello della Lombardia, e vi riferite naturalmente alla Grecia, può avere un impatto di questo tipo sulle borse. È chiaro che i timori sono di un effetto contagio, ve lo abbiamo raccontato tante volte, non è tanto un problema delle banche italiane che non sono particolarmente esposte verso la Grecia, ma è un problema delle banche di altri paesi, come per esempio quelle tedesche, che sono fortemente esposte. Si è detto spesso, l'hanno detto spesso anche le autorità europee, per fortuna in questo caso senza nasconderlo, che un qualche rischio di contagio dalla vicenda greca c'è proprio perché i titoli greci sono nella pancia di una serie di banche europee, quelle tedesche ma ovviamente anche quelle francesi. I titoli in realtà non ve li abbiamo dati tutti, quelli del FTSE MIB. Completiamo il quadro con Snam Rete Gas che scende dell'1,6, così come Generali e TOTS, di Assorin dell'1,5, Exor dell'1,39, ve l'abbiamo detto, l'Automatica dell'1,31, Enel Green Power dell'1,2, così come Finmeccanica, UbiBanca di un punto percentuale, così come Mediolanum ed Enel, in realtà poco più, poco meno ST Microelectronics meno 0,92, Campari giù dello 0,85, Parmalat dello 0,7, così come Terna e Luxottica, Telecom Italia dello 0,6%, Autogrill di mezzo punto percentuale, Eni dello 0,29, Atlantia dello 0,24 e Prismian dello 0,21, infine Ansaldo dello 0,10 e Bulgari dello 0,08. L'euro quota 1,4184 contro dollaro, e adesso continuiamo a parlare di mercati, ma da un altro lato, dall'altra parte dell'oceano. Allora, parliamo dunque di LinkedIn, dello strepitoso debutto di ieri a Wall Street per la matricola. È un social network, per chi lo conosce, è dedicato ai professionisti. In un solo giorno ha guadagnato il 109%, superando di gran lunga le previsioni degli analisti. Quello che sta facendo oggi lo avete sentito poco fa da Paolo Paronetto. L'azione era stata collocata a $45, ieri sera ne valeva 94,25 e oggi ancora di più. Per parlarne siamo in collegamento con il professor Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente di strategie aziendali all'Università Bocconi di Milano. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, c'è questa bolla oppure no? No, perché stiamo ancora parlando di singole aziende che hanno livelli di quotazione molto elevati, ma tutto sommato sopportabili dal mercato. la bolla di 10 anni fa era tale perché era generalizzata, non distingueva tra, come dire, merce buona e merce sbagliata e riguardava veramente centinaia di casi. In questo caso stiamo parlando di pochi casi isolati e, diciamo, nel caso di LinkedIn, ma potremmo anche parlare di Facebook, si tratta di piccoli monopoli naturali, quindi aziende che hanno delle rendite e non solo dei modelli di business. E questo è molto importante capirlo, perché le condizioni di 10 anni fa oggi sono molto diverse. Ma perché da un giorno all'altro, professore, un'azienda come LinkedIn deve passare da un valore di $45 per azione a un valore sostanzialmente doppio? Cioè, qual è il modello che c'è dietro? Perché viene valutata in questo modo? Un po' di sopravvalutazione ci sarà pure, no? È difficile dirlo, certamente cifre di questo genere non si vedevano da tanti anni e questo fa pensare a bolla. Nella fattispecie, mi scusi, la interrompo, professore, dal 1995 e dalla quotazione di Netscape. Comunque, prego. È così. E d'altra parte, questa è un po' la logica di queste aziende che sono promesse per il futuro. Quando Google fu quotata a valori che sono nettamente inferiori a quelli di oggi, forse, se non ricordo male, un ventesimo di quella che vale oggi, e oggi vale centinaia di miliardi di dollari. Il problema di LinkedIn è un problema dell'unico grande network professionale mondiale con un modello di business variegato e secondo me già abbastanza robusto, perché si basa sia sui ricavi dalle aziende sia sui ricavi dei professionisti, e quindi è un modello che ha una sua logica e ha una sua robustezza, una sua tasso di crescita non stellare ma robusto e costante. È un'azienda che invece ha sempre convinto, da questo a dire che vale tutti i soldi che vale, io non ho accesso a informazioni riservate e quindi è difficile dare un giudizio di tipo finanziario puntuale. Certamente c'è domanda di mercato di queste nuove realtà, l'esperienza di Google, ma anche quella di Apple, anche quella di Skype, che la settimana scorsa è stata comprata da Microsoft per una cifra molto importante. Tenete conto che Skype non ha mai fatto utili significativi, eppure è stata valutata 8 miliardi e mezzo di dollari. Ma quando compra Microsoft, però, non possiamo parlare di ingenui investitori sprovveduti, stiamo parlando della più grande azienda software del mondo, e se spende 8 miliardi e mezzo dei suoi preziosi fondi di cassa lo fa con cognizione di causa. Allora, qualche dato sulla quotazione di LinkedIn. La capitalizzazione a ieri sera era salita a 9 miliardi di dollari, ossia 24 volte i ricavi annualizzati del primo trimestre 2011 e 167 volte l'utile operativo. Ora, professore, sarà pure solido il modello di business, però, ripeto, anche in vista di quando arriveranno sul mercato Facebook e poi Groupon, qualche timore c'è. Sì, ma ricordo che due mesi fa Bulgari è stata venduta per 60 volte i dividendi. Bulgari non è esattamente una startup mondiale, insomma, l'ha comprata Louis Vuitton, quindi il più grande gruppo del lusso abituato a fare acquisizioni molto importanti. Stiamo parlando di un'azienda che ha un piccolo monopolio naturale, il luogo di ritrovo dei professionisti della borghesia produttiva di tutto il mondo. Questo è molto specifico perché è un patrimonio non facilmente ricostruibile. Guardare i guadagni dell'anno in corso non racconta tutta la storia delle potenzialità di questo modello. Detto questo, investire in borsa è e rimane un'attività imprenditoriale ad altissimo rischio, e chi lo fa deve farlo sapendo di correre questo rischio consapevolmente. Quindi noi dobbiamo assicurare trasparenza e simmetria informativa, ma non possiamo, come dire, impedire agli stupidi di separarsi dai loro soldi. Grazie al professor Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente di strategia aziendale all'Università Bocconi di Milano, per essere stato con noi. Buonasera. Buonasera a voi. Ci ritroviamo tra poco, subito dopo il giornale radio. Parleremo del paese che va, quello che emerge dai dati su fatturato ordinativi dell'industria, e di quello che non va, di un rigassificatore bloccato da troppo tempo. Le 18:08 di nuovo buonasera, gentili ascoltatori, da Simone Spezia. 349-238-6666 per i vostri sms. Intanto l'agenzia di stampa Radio Cori, Il Sole 24 Ore, diffonde la notizia che Dominique Strauss-Kahn lascia il Fondo Monetario Internazionale, naturalmente, e come sappiamo probabilmente si farà parecchi anni di carcere, a meno che non riesca a farsi assolvere, ma riceverà almeno $250,000 all'anno per tutta la vita. Questa è la pensione che gli riserva il Fondo Monetario Internazionale, almeno $250,000. Mentre nel frattempo si diffondono notizie in Europa di quest'altro scandalo che sta colpendo Munich Re, che avrebbe organizzato una gita, anzi ha ammesso di aver organizzato una gita così definita incentivante per i suoi migliori 100 venditori a Budapest con una ventina di prostitute. Questo è quello che sta scuotendo Munich Re in questo momento. Vabbè, parliamo d'altro e parliamo di industria italiana. E forse avete ragione a dire, insomma, forse siamo stati un po' enfatici nel dire l'Italia che va, l'Italia che comunque prova a ripartire. È quella dell'industria italiana che ha fatto segnare un fatturato industriale in marzo in crescita del 2% rispetto al mese precedente, del 12,2% su base annua, che per quanto riguarda gli ordini fa registrare un più 8,1% in marzo ed è il top dal 2006, livello massimo dal 2006 appunto. Soprattutto trainato dal mercato estero, che fa segnare un più 15,5%, e su base annua gli ordini sono cresciuti del 21,2%. Certo, siamo lontani dai livelli pre-crisi, per quanto riguarda il fatturato manca circa un quarto, però insomma ci si prova, commenta il ministro dello sviluppo economico Paolo Romani, che si conferma che la crescita della nostra produzione si sta consolidando. E oggi è stata presentata anche l'indagine congiunturale della Federmeccanica, che è l'associazione di Confindustria che raccoglie le imprese metalmeccaniche, appunto. Nel primo trimestre 2011 la produzione è aumentata dello 0,8% rispetto al trimestre precedente e del 6,7% rispetto al primo trimestre del 2010. Come si diceva, anche qua i volumi di produzione sono inferiori di circa il 25%, del 24,5% rispetto a quelli pre-recessione. In Germania, che ormai sta diventando il termine di paragone se si vuol parlare di crescita, questa differenza si è ridotta a meno di 5 punti percentuali, termine di paragone, anche se oggi la Bundesbank, la banca centrale tedesca, dice che insomma non c'è da sperarci troppo e non c'è da sperarci troppo a lungo. Sono aumentate le esportazioni del 24%, le importazioni sono cresciute del 21,9%. E comunque tra il 2007 e il 2010 nell'industria metalmeccanica si è perso il 7,2% dei posti di lavoro. Il nostro Andrea Viali ha intervistato il vicepresidente di Federmeccanica, Luciano Miotto. Dopo un 2010 in cui la ripresa era stata del 10,9%, il primo trimestre di quest'anno evidenzia quello che era già successo nell'ultimo trimestre dello scorso anno, cioè un rallentamento della crescita. Significa che c'è crescita, ma è molto molto piccola. In particolare, se noi andiamo a guardare i dati dei nostri principali partner europei, verifichiamo che mentre la Germania sostanzialmente è arrivata al 95% del dato 2008, quindi la Germania è sostanzialmente fuori dalla crisi, noi oggi ci troviamo ancora con 24 punti per ritornare ai livelli del 2008. Cosa che frena la ripresa da noi? Analizzando i dati noi vediamo che mentre abbiamo dei dati positivi e le aziende lo dicono in maniera abbastanza chiara, le aziende esportatrici riescono a riavere dei numeri buoni, il mercato interno rimane contratto e rimane contratto sostanzialmente per due ragioni. La prima ragione è che manca la fiducia da parte del consumatore, cioè proprio non c'è richiesta di prodotto. Le famiglie faticano a spendere. Ovviamente ci sono famiglie che hanno delle difficoltà oggettive legate al fatto che hanno dei disoccupati in famiglia, abbiamo comunque anche segnali evidenti che manca il clima di fiducia da parte di quelle famiglie che potenzialmente potrebbero avere i mezzi. Dall'altro mancano anche gli investimenti sui macchinari e questo è un dato che indica mancanza di fiducia da parte delle aziende che dovrebbero acquistare i macchinari per poi produrre per le famiglie. Sollecitate interventi sono necessari secondo voi per favorire la ripresa dei consumi? È evidente che abbiamo bisogno di almeno di segnali positivi che stimolino i consumatori ad acquistare e che stimolino le aziende ad avere fiducia, perché è sicuramente importante per il mondo metalmeccanico esportare, ma altresì è importante stimolare il mercato nazionale. Dal fronte occupazionale invece quali sono le novità? Qual è l'andamento? Direi che è finita l'emorragia di personale. Noi riscontriamo un dato abbastanza interessante che è rallenta ma non si ferma completamente l'emorragia di operai, mentre il dato è positivo per quanto riguardano gli impiegati, e questo deve essere considerato come un segnale del come si sta spostando il mondo metalmeccanico. Anche nel mondo metalmeccanico andiamo verso la necessità di ristrutturare le aziende e di avere personale specializzato. Allora, questo è il quadro per quanto riguarda l'industria metalmeccanica. Ci chiedete di Portotolle. Non è di Portotolle che parleremo tra poco, subito dopo la viabilità, ma parleremo invece di un'altra vicenda, la vicenda del rigassificatore di Brindisi. La viabilità. Le 18:17:20 e adesso parliamo del paese bloccato. La storia la trovate tra l'altro anche sul Sole 24 Ore di oggi, in un bel pezzo a firma di Jacopo Giliberto. È la vicenda del rigassificatore di Brindisi, un progetto pensato da British Gas. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di altri episodi più o meno simili. La vicenda della centrale Enel di Portotolle, perché il Consiglio di Stato ha deciso lo stop ai lavori di riconversione a carbone della centrale. E sono in ballo circa 3.000 posti di lavoro per 5 anni e 2 miliardi e mezzo di investimenti. Più piccola, se vogliamo, minore ma significativa la vicenda dell'IKEA. 6 anni per avere una risposta dalle autorità locali per quanto riguarda il nuovo negozio che IKEA avrebbe voluto aprire a Migliarino, nel comune di Vecchiano, siamo in provincia di Pisa, un progetto di 70 milioni di euro e 350 posti di lavoro. Ci voleva una variante dell'Aurelia. E qua in parte il comune che non è riuscito a farsi ascoltare dalle autorità nazionali. In questo caso parliamo di qualcosa di molto più grosso come dimensioni e come importanza strategica. Saluto Damiano Ratti, amministratore delegato di British Gas Italia. Buonasera. Buonasera a lei, radioascoltatori. Allora, il progetto è partito 11 anni fa. Le chiedo, Ratti, e finora mi conferma che non c'è stato nemmeno una micro colata di cemento? Non esattamente, c'è stato qualcosa perché la situazione è un po' complessa. Se vuole le faccio un piccolo excursus. Sì, allora ci faccio un brevissimo excursus e ci spieghi com'è andata. Comunque, fatto sta che 11 anni dopo questo rigassificatore non c'è. Prego. Non c'è, no, non c'è. Quindi, come l'hai detto bene, nasce nel 2000, nel 2003 viene autorizzato dall'allora ministro Marzano. Fu autorizzato seguendo una legge di semplificazione, una proposta dalla legge Bassanini del 2000, una legge che serviva proprio a velocizzare l'iter autorizzativo di queste opere. Quindi fu autorizzato nel 2003, tutti d'accordo, enti locali, governo. Nel 2004-2005 però ci fu un cambio di scenario politico sia localmente che centralmente. Nacquero le opposizioni, vi fu un ricorso alla Comunità Europea contestando la legge italiana, che questa legge di semplificazione italiana. La Comunità Europea aprì una procedura di infrazione contro l'Italia, quindi nel 2007 insomma, il governo decise di sospendere l'autorizzazione che fu rilasciata nel 2003 e chiese di sostanzialmente ricominciare da capo. Nel frattempo noi costruimmo per circa un anno, infatti finora abbiamo investito circa 250 milioni in questo progetto tra spese e investimenti, quindi ci fu un po' di lavoro fatto, però peggio, perché poi fu interrotto e da allora purtroppo non è più successo nulla, perché noi rifacciamo tutti i permessi dal 2007, abbiamo ottenuto la valutazione di impatto ambientale ormai un anno e mezzo fa, e al momento tutto giace al Ministero dello Sviluppo Economico, che è il ministero che deve sostanzialmente togliere la sospensiva al vecchio decreto, alla vecchia autorizzazione, per poter ricominciare i lavori. Chiarissimo. Allora, il concetto è chiarissimo, rispieghiamo brevemente, lo faccio con parole mie, e mi perdoni Ratti, lei che è più tecnico, se sarò un po' brutale, che cos'è un rigassificatore. Di fatto il gas può arrivare in due modi in un paese, o tramite il tubo o allo stato liquido trasportato da navi, e viene portato in un luogo che si chiama rigassificatore, dove viene ricondotto a quello che è il suo stato naturale, ossia lo stato di gas, che è lo stato nel quale noi possiamo utilizzarlo. Allora, questo gas tra l'altro arriva dall'Egitto. Io voglio capire questo, il progetto è l'affermo, voi immagino che abbiate sollecitato il ministero in qualche modo. Ma noi, Ministero, non dico che lo sollecitiamo quotidianamente, ma sicuramente settimanalmente. Purtroppo però devo dire che dietro, a mio avviso, i bizantinismi peggiori non si riesce neanche a iniziare, non a completare la procedura. La legge dice che questa procedura, la conferenza di servizi, che deve riapprovare, per legge deve durare 200 giorni. Sono circa 9 mesi che il progetto è al Ministero dello Sviluppo Economico, i 200 giorni sono praticamente scaduti, stanno per scadere, non è neanche iniziata, non finita. E ripeto, questo non è un progetto nuovo, è un progetto già autorizzato. È sospeso per poter rifare appunto la valutazione di impatto ambientale. Questa è una differenza fondamentale, non è una cosa da zero. Quindi in sostanza completo silenzio da luglio. Da quel che ho capito, voi avete intenzione di agire in sede europea a questo punto? No, evidentemente, se non ci saranno risposte in tempi certi, non biblici, la società chiaramente dovrà difendere i propri interessi in tutte le sedi, inclusa la Comunità Europea, visto che chi si è opposto al progetto è riuscito a bloccarlo ricorrendo alla Comunità Europea, lo faremo anche noi per avere riconosciute le nostre ragioni. Ratti, essendo una multinazionale la vostra, avrà anche un'idea di quello che normalmente succede all'estero da questo lato. Ce la può dare? Glielo chiedo anche perché oggi è uscito una ricerca interessante, uno studio dell'FT e dell'Economist, del Financial Times e dell'Economist, su un campione dei 1500 top manager, dal quale emerge che l'Italia è, per così dire, molto, molto poco business friendly, cioè non è un paese dove andare a fare affari, è all'ultimo posto nel G7 e al decimo posto su 11 tra i paesi presi in esame. L'ultimo è la Russia, il primo in Canada, il primo è il Canada, subito prima di noi ci sono Cina, Francia, India, Giappone, Brasile, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, e perdonate se la classifica l'ho data nell'ordine inverso perché siamo partiti dal fondo. Cosa succede negli altri paesi, in particolare negli altri paesi europei, Ratti? Ma guardi, un esempio in casa nostra per uno stesso progetto di registratore, quindi due esempi assolutamente comparabili. In Inghilterra, quando partì l'idea del registratore italiano, visto che c'è necessità di rigassificatori in Europa generalmente per diversificare le fonti di fornitura, nacque anche l'idea di un rigassificatore in Galles. Partì la progettazione nel 2002, fu completato in un paio d'anni l'attività dei permessi, il registratore è stato completato ed è in funzione da un anno e mezzo, quindi dal momento in cui è stato pensato, dal momento è stato completato, non la procedura ma la costruzione, sono passati 8 anni. Lei consideri che dopo per costruirlo ci vogliono 5 anni. Lei prima faceva riferimento a posti di lavoro e a durata di un investimento. Il nostro, un registratore, sono 5 anni, impiega per questi 5 anni fino a 1000 persone, fino a 1000 persone all'anno. Quindi è molto grosso. Quindi per noi non è una cosa che si risolve fra un anno con i permessi, poi vanno attaccati comunque anche 5 anni. Se lei attacca 5 anni, quindi vuol dire che l'Italia, l'abbiamo pensato in Italia nel 2000 e lo vedremo nel 2016-2017 contro i 6 o 7 anni di un altro paese, in questo caso dell'Inghilterra. Quindi se tutto arrivasse subito avremmo il rigassificatore nel 2016-2017 e quindi se tutto partisse subito 17 anni per fare un rigassificatore a Brindisi. Grazie a Damiano Ratti, amministratore delegato di British Gas Italia. Buonasera. Buonasera. Vedremo come andrà a finire questa storia nell'attesa di una risposta del Ministero. Prima di chiudere vi ricordo la guida del Sole 24 Ore che sarà in edicola lunedì 23 maggio, lunedì prossimo, è dedicata al condominio, tema dell'inserto, la stagione delle assemblee. Si parlerà quindi delle modalità di convocazione dell'assemblea ordinaria e delle maggioranze per deliberare. Con questo è veramente tutto, un ringraziamento a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione, a Pietro Lacorte in regia, grazie naturalmente come sempre a tutti voi per l'ascolto, da Simone Spezia, una buona serata. Radio 24, la passione si sente.